Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Il fondo della bottiglia di Georges Simenon, traduzione di Francesca Scala. PM si era seduto in poltrona, con un sigaro in bocca, e poco dopo si era ritrovato con in mano un gran bicchiere di bourbon. Forse dava l'impressione di essersi assopito, ma in realtà aveva le palpebre leggermente aperte. Le osservava tutti, l'uno dopo l'altro, come se non li avesse mai visti. Nolan, per dire, il marito di Lilla. Incrociandolo per strada, lo si sarebbe potuto scambiare per un modesto commesso o per un impiegato di banca. Eppure, era uno di quegli uomini da cui, per tutta la vita, Donald aveva elemosinato un posto. E senza neanche rivolgere la richiesta direttamente a loro, ma sempre passando attraverso segretarie o capi ufficio. Da fuori, comunque, non traspariva nulla. Nessuno poteva sospettare che Donald appartenesse a un altro mondo, a quello degli umili. Anzi, proprio Nolan, a un certo punto, era andato a dire a PM: a quanto pare il suo amico ha intenzione di stabilirsi nel Sonora. Il Sonora è la provincia messicana che si estende immediatamente dopo il confine. Glielo ha detto lui? Lo ha detto a Pemberton, e Pemberton è andato in visibilio. Possibile che Donald fosse così cinico da arrivare a chiedere loro un lavoro? La maggior parte dei rancher che erano lì aveva interessi economici oltre frontiera. Nolan, attraverso la moglie, possedeva 3 ranch in Messico e forse si sarebbe lasciato tentare dall'occasione di darli in gestione a un americano. Se Donald avesse dovuto contare sui suoi soli mezzi, avrebbe fatto la coda in chissà quanti uffici di collocamento e avrebbe bussato invano alla porta di tutti i presenti. Adesso, invece, nonostante le indiscrezioni di Lil, o forse proprio grazie a quelle, gli sarebbe bastato dire una parola. Forse lo aveva già fatto, o era sul punto di farlo. Non aveva un soldo, PM lo sapeva benissimo. Era arrivato nella valle mezzo morto di fame. Mildred e i bambini, che lo aspettavano oltre la barriera, dall'altra parte del confine, non se la passavano certo meglio di lui. E se, con una scusa qualsiasi, fosse riuscito a farsi prestare del denaro? In fondo PM non conosceva per niente il fratello. A parte qualche vago ricordo d'infanzia, lo conosceva meno di un estraneo appena incontrato. A Emily Donald chiedeva regolarmente soldi, no? Nelle sue tasche dovevano essere finiti tutti i risparmi della sorella. Di sicuro la impietosiva con qualche frase ben congegnata, le parlava di Mildred, dei bambini. Probabilmente aveva provato a batter cassa anche dal padre. Quelli come lui, che parlano con compiacimento della propria sfortuna e della propria onestà, credono che tutto gli sia dovuto. Quando la signora Pope aveva rivolto la parola a PM, Donald era in piedi davanti al tavolo da poker, proprio dietro a Pemberton, di cui seguiva il gioco. PM aveva detto: «Non fatelo bere». Onestamente non poteva raccomandare loro: «Non sventolategli sotto il naso troppi soldi». Giocavano con le fish, certo, ma le fish avevano un valore ben preciso e alla fine sarebbero state cambiate in banconote e assegni. Donald, del resto, si era già informato sul loro valore. Le fish bianche valevano $1, le rosse 10, le blu 50. Ora, $50 era quello che Donald guadagnava su per giù in una settimana da Farners e Kampmeyer, quando aveva la fortuna di lavorarci. Se avesse avuto $50 a settimana assicurati per tutta la vita, per sé e per la sua famiglia, forse si sarebbe accontentato e non gli sarebbe toccato evadere da Joliet. Mettersi a rivangare certe questioni gli faceva uno strano effetto, gli dava quasi le vertigini. Erano figli dello stesso padre e della stessa madre. Eppure adesso, lì, PM era nel suo ambiente. Era un pari, o era come se lo fosse, di tutte quelle persone che si agitavano intorno a loro. Ed ecco che, di punto in bianco, spuntava fuori, famelico, Donald, che aveva sempre vissuto nella mediocrità, che aveva sparato a un uomo, che aveva trascorso 2 anni dietro le sbarre e che ora se ne stava lì tranquillo, con aria serafica, a guardar passare di mano in mano delle fish da $50, mentre una Lil Noland, che aveva un reddito di $50,000 all'anno, si dava da fare per andargli a prendere una Coca-Cola in frigo e gliela serviva in un grande bicchiere d'argento. Sembrava, allo stesso tempo, un sogno e un incubo. PM sentiva crescere in sé una sorda inquietudine, eppure nei suoi pensieri si insinuava anche qualche guizzo di soddisfazione, perché per la prima volta gli succedeva di constatare con chiarezza quanta strada aveva fatto. E adesso un uomo che non era stato capace di condurre una vita decorosa aveva forse il diritto di venire a mettere a repentaglio il risultato di tanti sforzi per la semplice ragione che era suo fratello? PM aveva caldo. Un temporale si stava allontanando in direzione di Tucson, ma già se ne addensava un altro sul versante messicano. Il fiume si era così ingrossato che se ne percepiva il boato. Le donne, come al solito, avevano finito per formare un gruppo a parte e il vecchio Pope, che non giocava, si era assopito con le mani incrociate sulla pancia e la bocca aperta. Se PM fosse rientrato solo 2 ore prima, la sera precedente, avrebbe potuto far passare Donald e adesso non se lo sarebbe ritrovato fra i piedi. In ogni caso, bisognava a tutti i costi evitare che Donald si stabilisse nel Sonora. Se proprio ci teneva a vivere in Messico, doveva andare più a sud. Gli avrebbe dato dei soldi. Non poteva fare altrimenti. Non poteva essere da meno di Emily. Se non glieli avesse dati, Donald se li sarebbe procurati a qualsiasi costo e allora sarebbe stato peggio. Quanti? Abbastanza per permettergli di sistemarsi. 1 mese era più che sufficiente. Con 1 mese di respiro, chiunque sarebbe riuscito a cavarsela ovunque e lui, PM, aveva lavato i piatti nei drugstore. Quanto a Mildred, era perfettamente in grado di lavorare. C'era abituata. Certe donne lavorano finché campano. E poi, quanti anni avevano i ragazzi? Non si ricordava più se il primogenito era maschio o femmina. Era Emily a tenere i registri di famiglia. Comunque doveva avere all'incirca 16 anni. E se era un maschio, a quell'età poteva benissimo guadagnarsi da vivere. Cosa provava un ragazzo di 16 anni quando gli dicevano «Tuo padre è in galera»? Lo compativa? Ce l'aveva con lui? Lo odiava? Oppure anche lui pensava che certe persone sono sfortunate o vittime dell'ingiustizia? O magari era un piccolo ribelle, pronto a inalberarsi, e forse sarebbe andato anche lui a chiedergli conto delle sue azioni, come aveva dato l'impressione di fare suo padre quella mattina. Si sentiva soltanto il brusio pigro delle chiacchiere, il rumore delle fish o di qualcuno che riempiva un bicchiere, perché nel frattempo Jenkins era sparito e ognuno si serviva a proprio piacimento. C'era un'atmosfera soffice e avvolgente, anche per via di quel cielo basso e del brontolio del temporale in lontananza. Un'atmosfera davvero domenicale, e veniva da chiedersi dove diamine corressero le auto che ogni tanto passavano strombazzando. Fu in quel silenzio più ovattato di un silenzio assoluto che echeggiò una suoneria stridula e in un certo senso quasi ridicola, e PM trasalì, come quando la signora Pope gli aveva rivolto la parola. Nessuno gli avrebbe mai creduto se avesse detto di essere certo, fin dal primo istante, che quella telefonata era per lui. Non solo, ma aveva avuto anche il presentimento che sarebbe stata spiacevole. Quel suono gli era entrato nelle orecchie come la voce aspra del suo nemico. Lil Noland aveva alzato la cornetta del telefono che era per terra, a portata della sua mano. «Un'interurbana? Come? Per chi? Pronto, non capisco tanto bene. L'apparecchio gracchia». Tutti lo sentivano gracchiare. Era il temporale che sfrigolava nell'apparecchio. Beverly Hills? Con chi vuole parlare? Ashbridge. Erano talmente abituati a chiamarlo tutti PM che Lil ci mise un po' prima di capire che era per lui. Le centraliniste a Nogales conoscevano le abitudini della gente della valle e non ci impiegavano molto a rintracciare gli abbonati nei vari ranch. «È qui! Glielo passo!» Anche Donald si chiamava Ashbridge. E quando era stato pronunciato il loro nome, PM lo aveva guardato. Diversamente da quanto aveva temuto, Donald non si era mosso, ma aveva puntato lo sguardo sul fratello e ora continuava a fissarlo negli occhi. «Pronto? Sì, sono io.» PM evitava di pronunciare il nome di Emily, che era dall'altro capo del filo, perché non c'era nessun bisogno che tutti sapessero che aveva una sorella in California. «Sì, non ti sento bene, c'è un brutto temporale nei paraggi. Come hai detto?» «Sì, sì.» Era proprio Emily. Erano anni che non si parlavano di persona. Avrebbe potuto chiedergli notizie di lui? In realtà, fino a un istante prima, non sapeva neppure se era vivo o morto. E invece stava semplicemente dicendo: «Donald è lì?» «Sì.» «Sta bene?» «Sì.» «Non si è ancora rimesso in viaggio?» «No.» «Come mai?» «Siamo bloccati dal fiume.» «In che senso?» «Il fiume si è ingrossato. Sono cominciate le piogge. Potremmo rimanere isolati per giorni.» «Ho bisogno di parlargli.» «Come dici?» Tentava di guadagnare tempo. Voleva riflettere. Quelli che stavano giocando a poker avevano avuto il buon gusto di continuare la partita, ma la conversazione delle donne procedeva a rilento, inframmezzata da silenzi. Si intuiva che stavano tendendo l'orecchio. «Ho delle notizie da dargli.» «Dalle a me?» «È lì vicino, giusto?» Non ebbe il coraggio di mentirle. Tacque. «Passamelo.» «Forse sarebbe meglio.» «Come sta?» «Bene.» «Puoi aiutarlo?» «Ma sì.» Non c'era ombra di affetto nella voce di Emily. Era una voce impersonale, fin troppo limpida. «Ce la farai?» «Probabilmente.» «Probabilmente non basta.» Se fosse stato solo sarebbe sbottato. Intendeva anche lei sottoporlo a un interrogatorio? Che idea avevano di lui quei due? Parevano diffidenti. Per chi l'avevano preso? «Farò del mio meglio e ho discrete possibilità di riuscirci.» «Deve passare il confine. Questo lo sai, vero?» «Lo so benissimo. Passamelo.» Donald, immobile, continuava a fissare negli occhi il fratello e sembrava quasi indovinare le parole che Emily stava pronunciando. PM non avrebbe potuto giurarci, ma era pressoché certo che avesse cominciato ad avvicinarsi nel preciso istante in cui lei aveva chiesto con tanta determinazione di parlare con lui. Non era il caso di fare una scenata lì da Noland. Donald di sicuro non avrebbe detto niente che potesse destare sospetti. A malincuore gli allungò la cornetta che l'altro afferrò con mano tremante. Si curvò e con voce smorzata fece: «Pronto?» E da quel momento in poi non disse nient'altro che «pronto», di tanto in tanto. Fu una telefonata lunga e monotona. Le donne, loro malgrado, quasi senza accorgersene, erano ammutolite. L'espressione di Donald era di profonda concentrazione e la mano, stretta intorno alla cornetta, era pallida, tanto i suoi muscoli erano contratti. Ma i lineamenti del viso erano immobili e forse, per darsi un contegno, continuava a guardare fisso il fratello. «Sì, sì.» Emily pronunciava lunghe frasi, punteggiate a tratti dal crepitio di un tuono. In qualunque altro paese, tranne forse che in Inghilterra, quella conversazione sarebbe stata impossibile, ma Emily sapeva perfettamente che la polizia non era autorizzata a mettere il suo telefono sotto controllo e continuava a parlare. Erano passati più di 5 minuti e Donald era l'unico che restava immobile e che sembrava non trovare quel tempo lunghissimo. «Grazie», disse alla fine. PM sperava che la sorella lo volesse di nuovo all'apparecchio per informarlo del risultato della conversazione, ma non fu così. Donald riagganciò, ebbe la prontezza di spirito di voltarsi verso la signora Noland e di far fugliare. «Le chiedo scusa». «Di niente, si figuri!» Gli tremavano le labbra. Con un gesto automatico si guardò intorno e PM intuì che cosa stava cercando. Qualcosa da bere, qualcosa di forte. Per un attimo ebbe paura che il fratello gli prendesse di mano il bicchiere ancora mezzo pieno, ma Donald, facendo uno sforzo su se stesso, si umettò le labbra secche con la lingua. Benché represso, il suo turbamento era così evidente che Lil Noland non poté trattenersi dal chiedergli «Nessuna brutta notizia, spero?» mentre quella strega della signora Pope sussurrava all'orecchio di PM «È sposato? Perché diavolo tutti quanti, o meglio, tutte quante, si interessavano tanto a Donald? Che cosa aveva di così eccezionale ai loro occhi?» Se non avesse avuto indosso gli abiti di PM, non lo si sarebbe potuto distinguere da uno di quegli impiegatucoli che comprano i vestiti a credito. Se era così pallido, lo si doveva al fatto che aveva vissuto gli ultimi 2 anni in gattabuia e chissà come si sarebbero spaventate se tutto ad un tratto fossero venute a saperlo. «Pat!» Donald avrebbe voluto rimangiarsi quella parola, ma ormai gli era sfuggita di bocca e la signora Pope l'aveva sentita. È registrata. D'ora in avanti sarebbe stata capace di chiamarlo anche lei, Pat, per il semplice gusto di mandarlo in bestia. «Permette, signora», si era rivolto alla signora Noland, che subito replicò. «Io la chiamo Eric, lei deve chiamarmi Lil». Proprio non ce la faceva, e adesso PM se ne rendeva conto. Un povero uomo come lui, che per 40 anni era stato addestrato all'umiltà, non poteva certo dall'oggi al domani, come se niente fosse, mettersi a chiamare per nome la proprietaria di una tenuta come quella. «Avrei bisogno di dire 2 parole in privato a PM». «Prego, andate dove volete. Chiudetevi pure in una delle stanze, se lo desiderate. Spero solo che lei non abbia ricevuto qualche brutta notizia». Si intuiva che Donald avrebbe voluto abbozzare un sorriso, ma non ci riusciva. E questo non faceva che accrescere la curiosità delle donne nei suoi confronti. Chissà se a quel punto aveva un'aria abbastanza triste per i loro gusti. Chissà se era abbastanza interessante. Mentre loro due si appartavano, le signore avrebbero potuto spettegolare con comodo. Che assurdità! Figurarsi se quella conversazione non poteva aspettare. Sembravano proprio 2 idioti mentre si allontanavano dagli altri, soprattutto PM che lo aveva introdotto nella sua cerchia e che di fatto lo aveva imposto ai suoi amici. Nel frattempo aveva ricominciato a piovere, ma nel patio c'era un portico in cui la pioggia non arrivava. Il pavimento era costituito da grandi lastre di un bel verde chiaro, lo stesso verde e le stesse lastre che rivestivano il fondo della piscina. Fatti pochi passi, Donald si era fermato, ma ancora non si decideva a parlare. Finalmente, intanto che il fratello, per darsi un contegno, si accendeva un sigaro, disse: «Devo telefonare a Mildred. Hai l'indirizzo?» Donald respirava a fatica. Era come se avesse le vertigini, perché il suo corpo vacillava leggermente in tutta la sua altezza, mentre se ne stavano entrambi in piedi nel bel mezzo del patio. «Sta impazzendo per l'angoscia. Ha speso gli ultimi soldi che le rimanevano per telefonare a Emily». PM aveva un'espressione dura dipinta sul volto, ma non diceva niente. Non aveva niente da dire. O meglio, se avesse parlato avrebbe detto troppo. Sarebbe esploso. «Mi aspettava molto prima. Non immaginava che ci avrei messo tanto tempo. Ha fatto un sogno che l'ha letteralmente terrorizzata». «Ci mancavano anche i sogni adesso. I sogni di una donna, per giunta. A questo punto erano arrivati. Sembra che da diversi giorni lei e i bambini si stiano dando il cambio nei pressi della barriera». «E perché non incollare direttamente la faccia alla barriera? Magari uno di loro era lì la sera prima, quando PM aveva passato il confine. Devo chiamarla. Hai il numero? Nogales, 103. È una pensione a conduzione familiare. Hanno preso una sola camera per tutti e quattro. Il più piccolo dorme sullo scendiletto. È stata Emily a dirtelo? Sì. E non poteva proprio farne a meno, vero? Che intendi dire? Che senso aveva insistere? Fra loro c'era un abisso. Da una parte lui e la gente della valle. Dall'altra, le persone come Emily, come Mildred, come il bambino che dormiva sullo scendiletto. Evidentemente non potevano proprio trattenersi dal far perdere la testa a Donald, che in realtà era capacissimo di commettere una sciocchezza anche senza il loro contributo. E sarebbe successo lì, da PM, nel suo mondo. Tutte le conseguenze sarebbero ricadute su di lui. «Devi assolutamente riuscirci», gli aveva intimato Emily. Con che diritto gli parlava così? Solo perché aveva nascosto Donald a casa sua. Anche lui stava facendo lo stesso, anzi, lui era tanto più ammirevole perché aveva da perdere molto più della sorella e perché, a differenza di lei, non era solo, aveva delle responsabilità. Lei aveva dato dei soldi a Donald? Ebbene, gliene avrebbe dati anche lui. E allora? Andiamo a casa tua a telefonare, ti va? Non puoi aspettare che andiamo via tutti. Allora Donald fu categorico e lo fu in modo brutale. Disse una sola parola, ma con un tono di voce in cui PM, che era ancora in grado di valutare il sangue freddo di un uomo, percepì nettamente una minaccia. No! Non c'era da discutere. Il suo sguardo era inequivocabile. Uno sguardo calmo, ma così sicuro di sé. Non è molto gentile nei confronti di Lil Noland. È da 2 giorni che aspetto. Una ragione di più per... Meglio battere in ritirata. Donald sarebbe stato capace di picchiarlo, lì, nel patio. E allora sì, che avrebbero fatto proprio una bella figura, tutti e due. Vieni con me. Ecco com'era andata. Ecco com'era andato il pomeriggio a casa dei Noland. E adesso c'era un elemento nuovo. La paura di PM. Non solo paura che Donald potesse commettere una sciocchezza o che gli rovinasse la reputazione, ma paura allo stato puro, paura per se stesso, per la sua vita. Era accaduto sotto l'acqua, vicino alla piscina in cui crepitava la pioggia battente, nel patio attraversato da correnti d'aria quasi fredde. Forse aveva pensato troppo dopo il lunch, sprofondato in poltrona. E forse Jenkins gli aveva servito troppi drink. Donald invece non aveva bevuto, non aveva allungato la mano verso bicchieri o bottiglie, tranne che in un brevissimo istante. Era duro come una roccia e adesso PM sapeva che sarebbe andato dritto per la sua strada senza farsi ostacolare da niente. Emily non avrebbe mai dovuto mandarlo da lui. Avrebbe dovuto capire. Per lei non c'era niente di più naturale che mandare un fratello dall'altro e neppure immaginava che abisso potesse esserci fra loro. Sì, invece che lo immaginava. Lo dimostrava il tono con cui gli aveva parlato al telefono. Anche lei, in un certo senso, lo aveva minacciato. Non con lo sguardo, non con le mani strette a pugno lungo i fianchi, ma in maniera preventiva e gratuita, senza sapere che cosa PM avrebbe fatto o non fatto. Devi assolutamente... Quando beveva troppo, gli capitava di avere un'aria fiacca. Ed era lui il primo a rendersene conto. Per questo andava a guardarsi allo specchio. Ma se è vero che poco prima era un po' alticcio, ora era perfettamente sobrio. Eppure non aveva mai avuto un'andatura o un aspetto così fiacchi, né la faccia così gonfia come quando entrò in soggiorno con il fratello che, serafico, gli stava alle calcagna. «Deve scusarci, Lil. Eric Bell», gli ci volle uno sforzo per recuperare quel nome dal fondo della memoria, «deve fare delle telefonate urgenti. Che cosa gli impedisce di farle da qui?» Capì di essere stata indiscreta e si affrettò a precisare. «In camera di Larry c'è un telefono. Eric può chiudersi lì dentro tutto il tempo che vuole. Ha bisogno di consultare dei documenti che sono da me». Quello era stato un passo falso. Nora aggrottò la fronte. Sapeva benissimo che il loro ospite era arrivato senza neppure l'ombra di una valigia. «Vengo con voi», disse. «Ma no, tanto torniamo. Ne avremo al massimo per mezz'ora». Pemberton, concentrato sul gioco, buttò lì: andate a dare un'occhiata al fiume e dateci notizie. D'accordo. PM si era ripromesso di non farlo, ma fu più forte di lui. Passando vicino alla poltrona su cui era stato seduto, afferrò il bicchiere ancora mezzo pieno e lo vuotò d'un fiato, con avidità. Il fratello lo guardò. PM si asciugò la bocca. Andiamo. Perché Lil Noland era in ansia? Forse aveva dato troppo credito alla storia della pazzia e si immaginava che, una volta arrivato a casa, Donald avrebbe avuto una crisi. Anche PM aveva paura. Una paura sorda, ancora indefinita, ma che lo faceva sudare freddo.